Buonasera a tutti, inizia Jardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21:30. Siamo in diretta radiofonica, stiamo trasmettendo appunto da Radio Onde Furlane, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Questa era la sigla iniziale per questa trasmissione che andrà avanti fino alle ore 21:30. Noi stiamo trasmettendo da Radio Onde Furlane da Udine e questo ovviamente è Jardins Magnetics, sempre in diretta radiofonica, e anche oggi 25 settembre 2025 siamo qua ovviamente con l'impegno dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora passiamo così all'ascolto di questa band dell'area torinese, dell'area punk hardcore degli anni 80. Loro sono i Nero Orgasmo e nel 2011 venne pubblicato un cofanetto contenente un sacco ovviamente di testi e disegni e pure un DVD oltre al CD che andiamo ora ad ascoltare, e questo appunto uscì nel 2011. Allora, quindi ci ascoltiamo. Ah sì, tra l'altro una cosa che non ho detto, che comunque in questo CD c'è praticamente la discografia completa loro, anche se pubblicarono solo 2 7 pollici, ma ci sono un sacco di live e brani inediti per questi Nero Orgasmo. Bene, buonasera a tutte e tutti per questa puntata del 25 settembre di Zardins Magnetics. Sono le 8:17, un saluto agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onde Furlane che ci ascoltano in diretta FM o streaming, e un saluto anche a chi ci ascolta su Radio Stacchio e su Radiazione. Vado a introdurvi così la puntata. Dunque, facendolo, vi ricordo subito che domani, cioè che il 26 settembre, venerdì, per chi è di Udine e dintorni, allo spazio autogestito di Udine ci sarà, in via De Rubeis, ci sarà una iniziativa, una proiezione del filmato appunto Colpevoli di Palestina sulla vicenda di Anan, Ali e Mansour, tre palestinesi accusati di associazione sovversiva, e quindi sono in questo momento appunto imputati in un processo che si sta svolgendo al Tribunale dell'Aquila, e ve l'avevamo già annunciato in chiusura dell'altra puntata, della scorsa puntata. Quindi continueremo stasera con i ragionamenti svolti sempre qui su Zardins Magnetics giovedì scorso, in particolare sull'accusa di terrorizzare, praticare terrorismo, rivolto appunto in maniera così equivoca dagli stati, dalle autorità, dal potere, contro, normalmente ormai contro chi, anche contro chi si ribella e semplicemente si difende da uno stato di oppressione. E da questi ragionamenti, che riguardano comunque quello che è accaduto e si sta svolgendo, oltre che appunto la questione palestinese, anche nell'estremo oriente, e cercheremo di fare anche continuare questo discorso anche con un'analisi della repressione, un bilancio della repressione di questi anni, su come appunto ha sempre più chiaramente il senso di una, anche qui, di uno strumento di governo contro chi esprime dissenso in questo paese. Okay. Sì, anch'io vi saluto. E appunto, prima di così riprendere un attimo l'approfondimento sul discorso di dell'analisi, diciamo, del dispositivo di terrorismo, dell'accusa di terrorismo, come lascia passare per ogni forma di repressione, di cancellazione, appunto, di ogni ribellione. E volevo dire una cosa relativa ad Annan e al processo dell'Aquila, di cui parlava chi mi ha preceduto. Appunto, Annan è stato trasferito, era detenuto al carcere in alta sicurezza di Terni, è stato trasferito a Melfi, carcere di Melfi, e l'udienza che doveva essere, diciamo, definitiva, quella di oggi proprio, l'udienza del 26, in realtà c'è stato un rinvio. Per cui compagni e compagni dell'Aquila, insomma, un po' hanno fatto un po' questa analisi, diciamo, della situazione, probabilmente per smorzare l'effetto, l'impatto forte che sia una soluzione che una condanna e potrebbe avere, appunto, così tra le file di chi dimostra solidarietà attiva con la Palestina, insomma, e si oppone al genocidio e allo stato coloniale israeliano. E appunto una sentenza comunque così vicina al 7 ottobre e alle varie mobilitazioni, insomma, di inizio ottobre, avrebbe potuto avere un effetto forte. Quindi presumibilmente da qui viene la valutazione, insomma, di rinviare, quindi non è un bel segno, diciamo, e comunque è punitivo sicuramente anche il trasferimento, visto che Annan comunque era in un contesto di compagni, sì, inserito appunto in una sezione di compagni. E allora, appunto, l'iniziativa di domani, come è stato già anticipato, ha l'obiettivo anche di rafforzare sempre di più la solidarietà verso i combattenti, non solo la solidarietà, cioè la solidarietà quindi verso la resistenza palestinese e specificamente la resistenza di chi ha combattuto o combatte anche tuttora. E per riprendere il discorso, appunto, sul terrorismo, eccetera, andiamo a vedere un opuscolo, uno scritto che è uscito, che è stato pubblicato dal Rovescio, e si tratta di una parte, diciamo, una parte di un libro. Di un giornalista americano californiano, che il libro di questo giornalista, che si chiama Vincent Bevins, si intitola Il metodo Jakarta, la crociata anticomunista di Washington e il programma di omicidi di massa che hanno plasmato il nostro presente. E questo testo, appunto, diciamo che analizza un po' tutte le crociate, chiamiamole così, anticomuniste, foraggiate, incrementate, sostenute, pilotate spesso e volentieri, cioè sempre dagli Stati Uniti e dalla CIA, dal punto di vista delle metodologie, diciamo, di controinsurrezione, a partire dagli anni 50 fino agli anni 90. E appunto, cioè, viene analizzato anche così il passaggio da questo accanimento, questo annientamento delle forze comuniste, e cioè praticamente questo discorso del comunismo fino a un certo punto, e poi diventa il nemico numero uno, diventa appunto il terrorismo, quindi il comunista, il soggetto comunista e poi il terrorista. E si parte, appunto, viene chiamato metodo Jakarta perché proprio in Indonesia c'è stato questo sterminio sistematico, scientifico, del Partito Comunista indonesiano, questo metodo, insomma, di sterminio di massa, che poi è stato nel 54 appunto, che poi è stato esportato in tantissimi paesi. Allora ci dice questo l'autore Bevins, ci dice negli anni tra il 1954 e il 1990 emerse in tutto il mondo una rete informale di programmi anticomunisti di sterminio appoggiati dagli Stati Uniti, che commise omicidi di massa in almeno 23 paesi. Non ci fu un piano d'insieme né una cabina di regia, ma penso che i programmi di sterminio in Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Corea del Sud, El Salvador, Filippine, Guatemala, Honduras, Indonesia, Iraq, Messico, Nicaragua, Paraguay, Sri Lanka, Sudan, Taiwan, Thailandia, Timor Est, Uruguay, Venezuela e Vietnam fossero collegati tra loro e abbiano avuto un ruolo cruciale nella Guerra Fredda. E appunto dice che sì, l'Indonesia è l'esempio più importante. Senza lo sterminio del PKI, Partito Comunista Indonesiano, il paese non sarebbe passato da Sukarno a Suharto, appunto il dittatore. Anche nei paesi dove il destino dei governi non era in bilico, gli omicidi di massa mostravano cosa sarebbe successo a chi opponeva resistenza, una forma efficace di terrore di Stato che venne applicata anche nelle regioni circostanti. Voglio affermare che questa rete informale di programmi di sterminio, organizzata e giustificata da principi anticomunisti, ha avuto un ruolo molto importante nella vittoria degli Stati Uniti e che quella violenza ha profondamente influenzato il mondo in cui viviamo oggi. E poi appunto l'autore ci dice che l'Indonesia divenne un partner docile e compiacente degli Stati Uniti e che comunque tutto questo, questa operazione di sterminio di massa anticomunista è stata praticamente rimossa. Cioè dice che tanti americani nemmeno, cioè, non sanno assolutamente quello che è successo, ma addirittura chi abita in Indonesia è rimasto, diciamo, streghizzato, lui dice, cioè è rimasto con questo blocco così intellettuale, politico, emotivo, per cui ha rimosso completamente, cioè è quasi come se questo sterminio fosse stata la cosa giusta, la liberazione dal male comunista appunto. Sì, ci dice appunto l'annientamento del terzo partito comunista del mondo e il sorgere di una dittatura fanaticamente anticomunista scosse violentemente l'Indonesia e provocò uno tsunami che arrivò in quasi ogni angolo del globo. Poi lui ci dà tutta una serie di numeri di morti di questi massacri nei vari paesi che ho citato prima e poi di questa cosa che in vari paesi, il Cile, il Brasile, il Guatemala, eccetera, la polizia, l'esercito, i servizi segreti minacciavano i dissidenti, i rivoltosi, i ribelli, i rivoluzionari, dicendo Giacarta sta arrivando. Ci dice appunto Bevins, ad esempio, in Cile, in diverse città del Cile nel 1972 compaiono queste scritte Giacarta, e oppure i militanti di sinistra si vedono recapitare per posta queste missive minacciose. Allora vi leggo perché è molto dettagliato. A incaricarsi dell'operazione sono il gruppo fascista, parliamo del Cile, Patria y Libertad, e la sezione cilena dell'organizzazione anticomunista brasiliana Tradición, Familia y Propiedad, base sociale del golpe militare in Brasile del 1964, entrambe finanziate dalla CIA. Poi l'11 settembre 73 in Cile avviene il colpo di Stato, quando migliaia di rossi vengono radunati allo Stadio Nacional per essere interrogati, torturati e uccisi, a presiedere le operazioni ci sono i consiglieri militari brasiliani, no? Quindi il Brasile, siamo nel 64, fanno scuola poi i militari brasiliani nel Cile del 72-73. La DINA, la feroce polizia segreta di Pinochet, creata dalla CIA, assassina in pochi giorni 3.000 oppositori. E poi l'autore ci parla del Guatemala. Anche il discorso del Guatemala è molto importante, Sempre sul rovescio c'è un altro articolo, perché comunque molto interessante, su che lega il genocidio guatemalteco con quello, cioè con il ruolo dello Stato di Israele, perché il Guatemala avvenne negli anni 80 e Israele aveva un ruolo fondamentale, addestrava praticamente, ha fornito insomma armi, addestramento e intelligence allo Stato di Guatemala, appunto, che ha fatto fuori nel giro di pochissimo 200.000 persone. Ma c'è questa similitudine, diciamo, col discorso del Guatemala e di Gaza, in quanto la distruzione colpisce questo terrorismo di Stato, questo progetto di annientamento, questo progetto, diciamo, genocidario, ma viene definito il genocidio riorganizzatore, avviene appunto in Guatemala per non solo per far piazza pulita di chi si oppone al regime, ma anche per affermare un modo, il capitalismo, diciamo, un modello capitalista, facendo piazza pulita appunto degli indigeni, cioè perché in questo caso, nel caso del Guatemala, appunto, cioè, come nel caso anche dei palestinesi, l'obiettivo è quello di appunto sterminare la popolazione, in modo da togliere, cioè da affermare insomma quello che si vuol fare, il modello, appunto. Mi viene in mente appunto il discorso di Gaza, non se, chiaramente le ruspe devono distruggere tutto, bisogna fare esplodere ogni cosa per poi portare avanti questi progetti necrofili, insomma, di resort, di spiagge di lusso e di queste cose qua. E allora, per tornare un attimo al Guatemala, la violenza contro indigeni e dissidenti in Guatemala viene promossa dalla Mano Blanca, una organizzazione razzista e ferocemente anticomunista, con l'appoggio dei berretti verdi nordamericani. Dal 1978 all'83 l'esercito guatemalteco uccise più di 200.000 persone. Circa un terzo di loro, soprattutto nelle aree urbane, furono portate via e fatte sparire. La maggior parte degli altri erano indigeni Maya, massacrati all'aperto nei campi e sulle montagne dove le loro famiglie avevano vissuto per generazioni. Nel 1982 vengono sterminati interi villaggi. In Indonesia l'omicidio di massa potrebbe non essere stato genocidio, ma solo omicidio di massa anticomunista. In Guatemala fu genocidio anticomunista. Appunto, questo sterminio, quindi, tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80, delle popolazioni Maya in Guatemala, diventa un modello, diciamo, un modello di riorganizzazione territoriale e integrazione di complessi scientifici, militari e industriali. Ci vengono ricordate le dittature di Lucas Garcia 1978-82, poi quella di Rios Montt 82-83, durante la quale fu portata avanti questa operazione Terra Bruciata, che anche questa evoca quella attuale, insomma, che viene portata avanti dallo Stato di Israele a Gaza e che comunque prende piede anche in Cisgiordania, visto quello che sta succedendo. E appunto lo Stato guatemalteco poteva contare sul supporto tecnico militare di Israele, Stati Uniti e Taiwan. Abbiamo già detto che attua questo genocidio contro gli indigeni, e c'è questo discorso di come si diceva prima la minaccia Giacarta. E c'è questa metafora del togliere l'acqua al pesce, perché il pesce è la guerriglia, l'acqua è la popolazione che è appunto contenta della guerriglia, sostiene la guerriglia e quindi nasconde i guerriglieri, i ribelli, e li protegge. Togliere l'acqua vuol dire distruggere individui e comunità per annientare il sostegno popolare alla resistenza e spopolare varie aree da depredare, appunto quello che effettivamente con questo abuso, insomma, di accanimento su Hamas sta succedendo anche, se ci pensiamo, in Palestina, perché il genocidio viene fatto appunto per togliere l'acqua al pesce, ai pesci. E questo questa operazione terra bruciata, non in Guatemala, non insomma, oltre ai 200.000 morti, 130.000 solo in questa operazione, però 1,5 milioni di sfollati, 150.000 rifugiati in Messico, 50.000 desaparecidos, quindi dei numeri veramente veramente mostruosi. E per finire questa parentesi, è significativo che la classe politica guatemalteca parlava di palestinizzazione dei ribelli indigeni Maya. Bene, stiamo ascoltando, anzi ascolteremo comunque ancora. Abbiamo appena ascoltato questa band di Pavia, loro sono in Malabrocca e nel 2022 hanno registrato questo CD che si chiama Sempre Ultimi e che ora, appunto, da poco tempo è uscito comunque in versione cofanetto, cioè no cofanetto, un CD all'interno di una scatola dove c'è pure una toppa, una spilletta, un adesivo e il libretto dei testi. Comunque loro sono i Malabrocca da Pavia. Yeah. Sì, per continuare appunto questo discorso, in questo opuscolo, dal metodo Giacarta al metodo Gaza, appunto viene detto, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, il concetto di comunismo è stato sostituito con quello di terrorismo, e quindi poi insomma si parla della crociata mondiale antiterrorista dopo il 2001, le Torri Gemelle, e anche qui un ruolo cruciale viene sempre giocato da Israele. E, sì, praticamente insomma, adesso non sto, vi invito a leggere l'opuscolo, che poi lo troverete anche domani all'iniziativa in via De Rubeis. E ci dicono i curatori: dobbiamo capire che Gaza non è un orrore contro il quale richiamare dal basso al rispetto del diritto internazionale o alla democrazia, bensì un metodo che compendia un'intera storia di massacri e che vale da monito per tutti i palestinizzabili del mondo. E la solidarietà internazionalista con la resistenza palestinese deve essere rafforzata dalla consapevolezza che qualcosa di simile è già accaduto. E torniamo a Giacarta. Gli hotel e i club di Bali, meta turistica e sessuale dei bianchi ricchi d'Occidente, sono stati eretti letteralmente sull'operazione Annientamento, che solo in quell'isola indonesiana sterminò il 5% della popolazione, vale a dire 80.000 persone. La sabbia su cui sono stati costruiti i resort e i beach club, dove i bianchi possono permettersi di comprare ospitalità di lusso o sesso dalla gente del posto, è la stessa sabbia dove i militari portarono persone da Kerobokan, qualche chilometro a est, per ucciderle durante la notte. E appunto, e concludono che la rivolta in corso in Indonesia faccia saltare per aria quei resort e l'infame violenza su cui sono stati costruiti. E chiaramente il popolo palestinese sa, diciamo, è consapevole che dal nemico deve aspettarsi tutta la violenza possibile. Questa consapevolezza è abbastanza evidente, insomma, anche sì, nelle testimonianze. E, sì, io rileggerei, per concludere questo intervento, un piccolo pezzetto di una dichiarazione di Annan al giudice, che dà l'idea proprio di questa consapevolezza e anche di questa forza, insomma, che fa sì, forza interiore e forza esistenziale anche, che fa sì che non ci sia proprio nemmeno lontanamente la possibilità di una resa, diciamo. Dice Annan: signor giudice, in passato sono stato sottoposto decine di volte alla tortura. Sono anche stato vittima di tentati assassini da parte di Israele, sia in Palestina che all'estero. Nel mio corpo vi sono 11 proiettili e oltre 40 schegge. Non ho un osso che non sia stato rotto. Non ho un passato, se non alcuni ricordi e foto di amici uccisi per mano dell'occupazione e di un'amica giustiziata a sangue freddo davanti ai miei occhi. Ho una famiglia che non vedo da lunghi anni e due genitori morti senza realizzare il loro sogno di rivederci un'ultima volta. Ho una patria devastata, un popolo sfollato e persino le nostre case sono state demolite dai bulldozer israeliani. Ciò nonostante, non ho mai fatto un passo indietro né esitato nel rivendicare il diritto del mio paese alla libertà e non ho mai chinato il capo davanti a nessuno. Questo perché credo fermamente in questa causa. Cosa sarà mai essere ucciso per la libertà del mio paese e del mio popolo? Cosa sarà mai trascorrere anni in carcere per la mia causa? Specie considerando che vi sono oltre 10.000 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane e io sono una parte indivisibile di loro. Non amiamo la morte, al contrario, siamo un popolo che ama la vita più di ogni altra cosa. Tuttavia, preferiamo la morte con dignità e onore al vivere nell'umiliazione, con i nostri diritti negati. E, ecco, questa così, anche determinazione, ma anche questa dignità, non so come sì, questo suo mood, insomma, colpisce, in effetti è qualcosa che colpisce istintivamente, no? molte persone, anche persone che magari sono rimaste indifferenti in altre situazioni, in altre, di fronte ad altre vicende così brutture della storia, però questa sì, questa è questa appunto esempio, diciamo, della lotta palestinese ha colpito nel segno, e lo si è visto, lo si vede con le mobilitazioni, insomma, in tutto il mondo, e lo si è visto anche in Italia, no? in questi giorni. Mi riferisco appunto alla giornata del 22 settembre. È stato detto da un compagno che in effetti, anche rispetto alla repressione interna dello Stato italiano, insomma, che è esperto in repressione, l'abbiamo detto altre volte, esporta addirittura, va in giro a fare lezioni sul 41 bis per esportare le tecniche di tortura democratica. Però le mobilitazioni per la Palestina sono state in grado di così mettere da parte la paura della, ad esempio, del decreto sicurezza, e molto più di manifestazioni sul decreto sicurezza, nel senso che, diciamo, i blocchi, ad esempio, perlomeno i blocchi, comunque i tentativi di blocchi sono stati messi in atto nonostante la criminalizzazione, no, di questa pratica, e tante altre cose. Quindi anche questo è una nella fase storica, diciamo, devastante che stiamo vivendo, è comunque un aspetto, cioè un lato, diciamo, che dà coraggio, ecco, che fa intravedere spiragli. We'll be right back. Eccoci qua, così una nota di colore a questo punto di Zardins Magnetics, sono quasi le 9, nota di colore, è disponibile una novità diciamo della stagione 2025-26, la maglietta, la t-shirt di Zardins Magnetics, sia nera sia bianca, disponibile. Con molta modestia è una maglietta molto molto bella che è disponibile insomma a richiesta anche agli ascoltatori. Noi adesso cerchiamo di andare avanti con la questione con la questione appunto già iniziata sulla repressione e dei movimenti, con, dicevo prima, un'analisi svolta da un giurista che è Livio Pepino, che faceva un po' il bilancio degli ultimi, in special modo degli ultimi 15 anni di questi accorgimenti che lo Stato prende per gestire le insorgenze o comunque il dissenso in forma più ampia. Allora, si parte dal falso presupposto che l'aumento di repressione, quindi l'aumento di provvedimenti, di detenuti, di sentenze penali, si parte dal falso presupposto che questo aumento è un effetto appunto all'aumento di reati. Si smonta molto facilmente questo falso presupposto perché i numeri lo smentiscono. Infatti nel nostro paese, Stato italiano, è stato raggiunto, diciamo, facciamo riferimento al 91, dove i reati, prendiamo ad esempio l'omicidio volontario, in un anno aveva raggiunto le 2000, appunto i 2000 omicidi. Nel 2025, finora, ecco, che è comunque oltre la metà dell'anno, siamo a 300 omicidi volontari e alla fine insomma del 2025 non si raggiungeranno verosimilmente i 2000. Sul piano dei detenuti invece 2991, eravamo a 30.000 detenuti e oggi 2025 siamo a più di 60.000 e si vede evidente che appunto i reati si abbassano, genere di reati gravi, diciamo quelli che sono costituiscono una minaccia per la convivenza anche il cosiddetta civile, comunque la convivenza comunque sia, mentre appunto le prigioni si riempiono e i piani edilizi delle carceri vengono appunto approvati e si approva, aprono concorsi diciamo per le guardie carcerarie, si assumono migliaia di nuovi agenti carcerari perché sono previste appunto costruzioni di nuove carceri e espansione delle esistenti, con anche addirittura moduli prefabbricati. Allora si vede che meglio che appunto la repressione può essere invece meglio intesa come un differentemente a seconda dei regimi diciamo politici. In un regime un po' più fra virgolette liberale è accompagnata la repressione anche dalle tutele individuali, le cosiddette garanzie, no? Perché è appunto un regime che si dice garantista fino a prova contraria appunto la persona viene tutelata, mentre nei sistemi un po' più autoritari per tradizione come ad esempio il nostro, quello è un semplicemente strumento di governo del malcontento popolare. E c'è un surplus, viene dato un eccesso di possibilità al potere degli apparati, appunto nella fattispecie polizieschi, ma anche alla magistratura, con degli accorgimenti che sono sia appunto legislativi, dove appunto la magistratura acquisisce certe pratiche proprie degli apparati appunto delle indagini, appunto, che sono in ultima analisi la polizia, e la polizia d'altro canto viene non solo numericamente sostenuta, cioè ci sono assunzioni continue, viene tutelata negli stipendi, ma anche gli viene dato a livello normativo tutele e diciamo libertà di agire anche fuori servizio, eccetera, cose che abbiamo visto con quest'ultimo legge sulla sicurezza che è stato approvato promosso da Piantedosi. Si diceva elmetto manganello, no? Perché c'era dentro anche Crosetto nella firma, boh. E quindi è un percorso di potenziamento, vero e proprio potenziamento della polizia, in ultima analisi, questo aumento della repressione. L'obiettivo, appunto, che è quello che era negli anni 60, 70, fino agli anni 80, i lavoratori che fossero prima braccianti, poi erano diventate l'operaio cosiddetto massa, l'obiettivo della repressione, ovvero il soggetto che veniva colpito dalle leggi repressive e dalle pratiche repressive, è diventato appunto oggi, ormai già da un bel po', gli attivisti manifestanti. In questo è anche coadiuvata la situazione anche dalla collaborazione dei media, che aumentano la percezione di pericolo, no, sulle varie fasce di persone, e quindi praticamente questi attivisti manifestanti, anche base, già da un po', diciamo, da partire, per non allontanarci troppo dagli anni 10 con la movimento in Val di Susa contro l'alta velocità, contro il treno ad alta velocità, è diventato sempre più, appunto, si è identificato l'obiettivo con questi attivisti, come se fosse un tipo di le loro fosse un tipo di pratiche di proteste, comunque di senso ingestibile, no? Ed esteso, e di un'intensità insopportabile. Nella realtà questo è vero, che c'è un diffuso dissenso già da qualche anno, per la situazione in Italia, diciamo da quando partiamo dal 2011, ecco, da quando è finita l'era di Berlusconi, ma c'è stata anche sono susseguite varie, insomma, situazioni di instabilità, cioè o meglio autoritarie a livello di esecutivo, no? Adesso non stiamo a fare tutto l'elenco, ma comunque tutti hanno presente quello a cui mi riferisco, e questo ha portato tra l'altro al proliferare di questi decreti pacchetti sicurezza, fin dal decreto Alfano, poi appunto tramite Minniti, poi Salvini e oggi Piantedosi. In mezzo ci sono stati anche i governi tecnici, quelli di Monti e di Draghi, no? Non è vero che è appunto ingestibile, cioè l'intensità del dissenso in Italia è piuttosto basso, è esteso il dissenso, ma molto basso il livello di intensità del dissenso finora. Può sempre cambiare la cosa, si spera, no? Come si diceva prima, anche in riferimento alle nuove generazioni, no? A questi scoppi di vitalità, come è successo lunedì 22 settembre. ma appunto sarebbe pienamente gestibile la situazione anche senza promuovere leggi eccezionali, sì, leggi particolari e aggravamenti di eccetera eccetera. Allora la repressione appunto in sé per sé sarebbe, si può essere così articolata in repressione diretta, cioè dove appunto l'esecutivo impedisce il dissenso, come nei regimi genere, insomma, dove facciamo l'esempio della Federazione Russa, ad esempio, dove è immediatamente impedito appunto l'espressione del dissenso, oppure, come succede qui in Italia, si disincentivano tutte le forme di dissenso, ma in maniera molto articolata, ad esempio, prima di tutto militarizzando il territorio, tutelando le forze dell'ordine, questo abbiamo visto già appunto con questo pacchetto sicurezza ultimo. Al di fuori di questo pacchetto di sicurezza ci sono l'aumento delle aggravanti e moltiplicazione di leggi sul... è ancora pacchetto sicurezza, voglio dire, le varie fattispecie nuove, ad esempio si diceva il terrorismo della parola e altre cose, insomma reintegrazione del blocco stradale come penale, cioè aggravanti eccetera, e come avevo accennato anche c'è il discorso sul a parte che le guardie vengono tutelate, ma a livello di magistratura c'è un uso preventivo della magistratura che è assimilato dal metodo di lavoro della polizia, invece, cioè i procedimenti vengono avviati e vengono si articolano come se le indagini non finissero mai, e come appunto si va a colpire la soggettività dell'indagato, non i fatti, no? Non si contestano i fatti, ma si contesta la sua soggettività. E a corollario di tutto questo c'è anche, insomma, l'abuso di combinazione di restrizioni amministrative, i fogli di via, no? Uno per dirne una, ad esempio. Ricordiamo la manifestazione di Roma del 5 ottobre del 24, un anno fa, no? Tutti i pullman fermati al casello autostradale, così, come se fosse normale disseminare le uscite lì dell'autostrada di pattuglie che fermano i pullman, anche di turisti, fanno il terminale a tutti i passeggeri e appunto chi ha precedenti o semplicemente ha segnalazioni gli si dà il foglio di via, no? Quindi non possono andare a manifestazione. E poi, ultima ma non meno importante, in Val di Susa è stata questa cosa qua, è stata eclatante, le azioni civili della magistratura per colpire anche economicamente i militanti e i manifestanti che sono contrari alla costruzione dell'alta velocità. Allora, tutto questo a livello, diciamo, di apparato, no, repressivo. I movimenti, uscendo adesso dalle questioni tecniche, eccetera, eccetera, saranno capaci sicuramente di trovare le loro strade per esprimersi, appunto si diceva anche poco fa del paradossal, cioè a conferma di questo il rompere appunto con la paura di certe pratiche, ad esempio il blocco stradale, no? A Bologna abbiamo visto insomma in maniera così eclatante sulla tangenziale, o al porto di Livorno o quello di Genova, senza appunto rompere con questa paura e mettere in pratica le azioni appunto di autodifesa senza indietreggiare di fronte alle minacce di dover pagare questo, no? A livello penale, poi in tribunale, e questo è un discorso, altri discorsi sono ancora da inventare, insomma, sono lasciate alla fantasia anche di generazioni che si affacciano a questo campo, no? Per motivi biografici loro, e così insomma la questione è abbastanza aperta, non è per niente, non finisce così, ecco, con questa manovra di accerchiamento, e sarà insomma impegnativa ma non impossibile romperla. Credete di non essere colpevoli solo perché non siete coinvolti direttamente? Ma io sono stufo! Sono stanco di guardare in silenzio! E ora voi volete ascoltare una canzone? Volete qualcuno che mi sollevi il morale? Beh, non sarò io! Stiamo ascoltando questa band di Rovereto, quindi zona Trento, loro sono i Gioia e i brani che ascoltiamo sono presi, estrapolati da un album Split assieme ad una band emiliana che loro sono i Jonestown Kids, e questo era un album appunto uscito nel 2017, e rimaniamo ancora all'ascolto dei i Gioia. Yeah. Eccoci, prima delle ultime brani per questa puntata di Zerdis Magnetics del 25 settembre, vado a ricordarvi l'iniziativa, per chi si trova qui dalle nostre parti, che si svolgerà domani, ovvero venerdì 26 settembre, ore 20:30, via De Rubeis, Udine, spazio autogestito, Colpevoli di Palestina, un documentario prodotto dai solidali con Ali, Anan e Mansour, i tre palestinesi accusati di associazione sovversiva sotto processo all'Aquila, di cui abbiamo parlato. Appunto, ci sarà documentario, poi discussione, così vi aspettiamo, e l'appuntamento per quanto riguarda, diciamo, i contenuti, i discorsi, è per giovedì prossimo, mentre Alina ripassa Di là del vetro. Bene, parlo brutalmente sopra questo brano di questa band londinese. Loro sono i Carnist, band che era, cioè che è esistita a più o meno a cavallo del 2015, ha fatto uscire due album, appunto uno nel 2014 e uno inizio 2016, ovvero quello che ci stiamo ascoltando, che si chiama Hellis. Loro, appunto, come ho detto, Carnist, da Londra. Bene, allora sfumiamo un po' questo brano, tanto ascolteremo tra in breve un po' un altro o se non addirittura due. Non potevamo fare a meno che anche far passare questa band, i Johnstown Kids, che appunto è l'altra band dei questi Johnstown Kids sono dell'Emilia Romagna, mentre questo split appunto abbiamo ascoltato prima i Gioia di Rovereto, e che appunto questo split LP uscito nel 2018. Bene, siamo anche al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. È sempre in diretta anche oggi 25 settembre 2025 dalle ore 20 alle ore 21:30. Ricordo che il programma funziona grazie all'impegno dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. Come sempre alla fine del programma i nostri contatti, se volete scriverci tramite posta elettronica scrivendo a liberetutti@autistiche.org oppure scrivendo in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo che questa trasmissione e anche quella delle volte scorse potete riascoltare il tutto su zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, l'appuntamento è per il prossimo giovedì. Ciao a tutti e salutiamo anche chi ci ascolterà domani in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Ciao e al prossimo giovedì.